Sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Consulta no ai referendum sulla legge elettorale. Su Cosentino Bossi conferma la libertà di coscienza il parlamentare PDL, un minuto dopo il voto mi dimetto. Successo per l'asta dei bot, crollano i rendimenti, domanda sostenuta, borse positive, cala lo spread. Stermina la famiglia e brucia la casa, è successo a Trapani, 5 morti. Buona giornata da Anna Rita D'Ambrosio e dalla redazione. La Consulta ha bocciato i quesiti referendari sulla legge elettorale e dunque partiamo ovviamente da qui in diretta con la nostra Alessandra Schepisi. Alessandra. Sì, buongiorno, è così, dunque doppio no ai quesiti presentati dal comitato promotore, non ci sarà nessun referendum sull'attuale legge elettorale, bocciati sia il quesito che chiedeva l'abrogazione totale della legge Calderoli, il famoso porcellum, sia quello che ne chiedeva l'abrogazione per parti, una abrogazione che avrebbe potuto aprire la strada, secondo molti, ad un ritorno del Mattarellum, la riforma studiata nel 93 da Sergio Mattarella, che tra l'altro è uno dei 15 giudici della Corte Costituzionale. Una decisione che arriva dopo una giornata e mezzo di Camera di Consiglio, un allungamento di tempi che aveva inizialmente fatto ben sperare i promotori, ma il doppio no era di fatto nell'aria, era una delle ipotesi più accreditate, un no che, a differenza dell'accoglimento, va comunque motivato con precisione, soprattutto in una materia così delicata, che potrebbe essere accompagnato anche da un invito al Parlamento affinché agisca per sanare le anomalie dell'attuale legge a partire dal premio di maggioranza. Ricordiamo che un avvertimento della Consulta c'era già stato nel 2008 proprio sulla questione, ma era rimasto inascoltato dai partiti. E ricordiamo che a sostegno del referendum erano state raccolte 1.200.000 firme, firme di cui il Parlamento in ogni caso dovrà tenere conto. Forte delusione di Pietro, che è stato uno dei più attivi sostenitori del referendum insieme a Sella, a pezzi consistenti del PD, e che chiede una mobilitazione di piazza. Qui alla Rita. Grazie Alessandra, e sono tantissimi ovviamente i commenti. Questa non è la prima né sarà l'ultima iniziativa referendaria che si conclude con una bocciatura della Consulta, ma la nostra battaglia prosegue, per la nostra battaglia per la democrazia prosegue. Questo è il primo commento di Andrea Morrone, che è il presidente del comitato promotore. Si erano mobilitati molto, e lo avete sentito, anche i partiti. Allora sentiamo Antonio Di Pietro dell'Italia dei Valori al microfono di Andrea Viali. L'Italia si sta oramai avviando lentamente ma inesorabilmente verso una pericolosa deriva antidemocratica. Manca fra poco solo l'olio di ricino. Oggi la Corte Costituzionale addirittura è arrivata al punto di impedire al popolo italiano, attraverso un referendum, di scegliere quale legge elettorale volere per individuare chi mandare in Parlamento e soprattutto mandare a casa. Una scelta, soprattutto quella sul secondo quesito, che non ha nulla di giuridico, nulla di costituzionale, ma solo una scelta politica e di piacere al capo dello Stato, alle forze politiche della maggioranza trasversale e inciucista che si è creata in questo Parlamento. Insomma, una volgarità che rischia per diventare un regime da qui a breve, se non viene fermata dal popolo al più presto con le elezioni. Insomma, parole dure, le avete sentite, queste pronunciate proprio poco fa da Antonio Di Pietro. Oggi però è una giornata importante, perché non solo si attendeva la pronuncia della Consulta, ma c'è anche il voto sul caso di Nicola Cosentino, parlamentare del PDL, coordinatore regionale campano del partito di Berlusconi. La Lega ieri ha fatto dietro fronte, ha lasciato libertà di coscienza, si sta votando in questo momento. In diretta la nostra Elisabetta Fiorito. Sì, Nicola Cosentino promette di dimettersi da coordinatore del PDL in Campania un minuto dopo il voto, a prescindere dal risultato, ed è proprio questo il nodo della questione, vale a dire come andrà qui alla Camera. La Lega lascia libertà di coscienza, quindi tutto è incerto. Intanto il deputato accusato dai magistrati napolitani di essere il referente politico del clan dei Casalesi nega qualsiasi connessione con la Camorra. Sentiamo Cosentino a Mattino 5. Io non ho alcuna parentela diretta con nessuno, sono stato sempre all'opposizione, non ho potuto mai favorire interessi criminali. Presidente mi ha detto di stare sereno, io ho detto sono sereno, tranquillo, e male non ho mai fatto, paura non ho. La seduta su Cosentino è in corso qui alla Camera, tra poco il voto, ma ciò che fa discutere il cambio di rotta della linea della Lega, che in un primo momento era favorevole al resto seguendo il consiglio di Roberto Maroni, ma poi che con Umberto Bossi ha deciso sulla libertà di coscienza, una scelta che potrebbe impedire le misure di custodia cautelare su Cosentino qualora, come è probabile, si chieda lo scrutinio segreto, ma che spacca profondamente la Lega, tanto che sul web la base chiede a Maroni di staccarsi e fondare un altro partito. Per il momento qui da Montecitorio è tutto, per studio. Grazie Elisabetta, dunque due temi caldi, due temi importanti. Allora io ringrazio Stefano Folli del Sole 24 Ore che è in collegamento con noi. Stefano, buongiorno, eccoci. Ciao Stefano, ti aspettavi la pronuncia della Consulta? Era nell'aria, eh? Era un po' nell'aria e questo carica i partiti di una responsabilità enorme, perché dopo che sono state raccolte 1.200.000 firme per cambiare una legge che tutti giudicano abbastanza indecente, il fatto che non sia stata ammessa dalla Corte per complesse ragioni giuridiche che bisogna rispettare, e secondo me fa male di Pietro Scagliasi con quella veemenza, però questo non toglie che il Parlamento debba rendersi conto che c'è un'esigenza dell'opinione pubblica di cambiare questa legge e deve farlo in tempi rapidi, e io penso che sia difficile perché non c'è nessuna idea concreta su come procedere. Anche perché i tempi parlamentari sono molto lunghi. Ma insomma sì, sono lunghi, ma è lunga soprattutto la fase diciamo istruttoria, quella in cui bisogna far maturare una ragionevole intesa, poi in se stessa la legge può essere approvata rapidamente perché non è una legge costituzionale, è una legge ordinaria, quindi non ci vuole poi tanto tempo. Volevo chiederti invece di Cosentino, qui insomma la Lega rompe definitivamente con il PDL, la Lega fa un passo indietro, oggi si vota, è una vicenda significativa per gli equilibri politici? Secondo me la Lega come noi l'abbiamo conosciuta in questi 20 anni, 25 anni, la Lega di Umberto Bossi è finita e finisce oggi su questa vicenda, comunque vadano le cose. Perché o Bossi viene smentito dal voto, vuol dire che la Lega non lo ha seguito, oppure diciamo si manifestano molti franchi tiratori che salvano Cosentino, e di questi franchi tiratori ce ne saranno molti leghisti, e a questo punto il partito diciamo sarà attraversato da una crisi profonda. Il servizio l'ha già testimoniato, no? Riferendo di quelle voci che chiedono a Maroni di andarsene per la sua strada e di costruire una nuova Lega. Quindi io credo che stiamo assistendo alla fine di un partito che ha avuto una grande importanza nella Seconda Repubblica, così come l'abbiamo conosciuto. Naturalmente poi vedremo l'esito del voto, perché anche sul PDL tutta questa vicenda potrà avere degli effetti, soprattutto se si dovesse esserci l'autorizzazione all'arresto e non la vittoria diciamo di Berlusconi e dei franchi tiratori. Grazie mille a Stefano Folli del Sole 24 Ore per la sua analisi sempre puntuale. Noi parliamo di economia, di buone notizie che arrivano dall'asta dei BOT. Il Tesoro ha collocato tutti gli 8,5 miliardi di BOT a 12 mesi nell'asta di oggi, con rendimenti che sono in picchiata al 2,7% dal 5,9% dell'ultima asta, quella del 12 dicembre. Forte la domanda, subito dopo l'asta il recupero dei titoli di Stato italiano rispetto a quelli tedeschi è diventato più marcato, lo spread è sceso sotto i 500 più punti e Piazza Affari vola, è la migliore in Europa, Fuzzi MIB in questo momento più 3,23%, vanno benissimo i titoli bancari e pensate che Unicredit guadagna il 12,35% in questo momento. Stamattina Monti alla Camera aveva intanto riferito dei vertici francese e tedesco. Non solo rigore e pareggi di bilancio, ma occorre pensare alla crescita dei paesi dell'Unione Europea. Il premier Mario Monti rilancia il ruolo del nostro paese. L'Italia deve giocare un ruolo attivo per contribuire a condurre l'Europa di nuovo sul cammino della stabilità e della crescita. All'interno all'indomani dell'ultimo incontro sul fronte europeo, quello con la cancelliera tedesca Angela Merkel, Monti ha chiarito che non ci sarà alcun cedimento sulla disciplina finanziaria, invocando l'appoggio del Parlamento, ma tra gli obiettivi del governo italiano nell'ambito della stesura del nuovo patto fiscale europeo, che non sarà 27 a causa della non adesione del Regno Unito, Monti ha sottolineato la posizione del nostro governo rispetto alla disciplina delle finanze pubbliche. Evitare che si introducano vincoli più rigidi, limiti procedurali o ulteriori sanzioni rispetto a quelli già esistenti. E una volta dato il via libera all'unione fiscale, anche la BCE potrà tirare il fiato o, come ha detto il Premier, sentirsi più rilassata. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E domani c'è Consiglio dei Ministri alle 9 del mattino. All'ordine del giorno non ci sono le liberalizzazioni, eppure su questo tema continuano le agenzie a sfornare anticipazioni. In caso di incorporazione o di fusione di due o più imprese che occupano alle proprie dipendenze un numero di prestatori d'opera di lavoratori elevato a 50, cioè insomma l'articolo 18 non si applica fino a 50 dipendenti, sarebbe questa la novità per stringere. Per spiegarvi di che cosa si tratta, contenuta nella bozza del decreto sulle liberalizzazioni. Dunque no all'articolo 18 fino a 50 dipendenti, una decisione che farebbe decisamente discutere. E poi c'è la novità che riguarderebbe i saldi senza nessun limite, non alcuni periodi dell'anno ma sempre, questo per rilanciare il commercio. Sono anticipazioni, ogni giorno emergono nuove anticipazioni che poi il governo però smentisce. Intanto una cosa è certa, i tassisti protestano da giorni, hanno proclamato uno sciopero nazionale per il 23 gennaio e a Napoli, in piazza del Plebiscito, hanno occupato fisicamente la piazza con tutte le loro auto bianche, oltre 300, e protesteranno ad oltranza. I tassisti partenopei propongono di aprire un caso Napoli. In questa città siamo già troppi, spiega la base della protesta, non ci sono sufficienti parcheggi e la liberalizzazione non comporterebbe un beneficio per i cittadini, visto che le tariffe sono imposte. Tantissimi temi sul tappeto di questa fase 2 del governo Monti. Un altro tema è la lotta all'evasione. Allora siamo alla nostra rubrica Paese sommerso. Il paese sommerso. Il paese sommerso. Storie di ordinaria evasione fiscale. Vi ricordate Laura, l'assistente parlamentare che lavorava in nero alla Camera dei Deputati per uno dei nostri politici? Ci ha raccontato la sua storia ieri, ma non voleva usare il suo nome, la sua voce. Ora altri collaboratori in nero di senatori e deputati hanno preso coraggio. In quattro da ieri hanno parlato con Radio 24. Ecco una testimonianza. Ho lavorato in nero e la cosa che mi faceva specie era per una deputata della sinistra. Circa 3 anni. Sabato e domenica compresi, perché quando fai l'ufficio stampa non hai sosta. Quanto prendevo io a nero? Non me lo ricordo, ma comunque era una cifra praticamente ridicola. E gli assistenti che di tanto in tanto denunciavano la loro situazione di lavoratori pagati in nero perdevano il posto, a volte perfino insultati, minacciati, tanto che ci sono state alcune poche condanne celebri, come quella di Gabriella Carlucci, che è stata trascinata dalla portaborse davanti al giudice del lavoro e condannata a risarcirle 10.000 euro. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Andiamo a Taranto per la cronaca. Nella seconda parte del nostro GR parleremo dei 5 morti in un appartamento alla periferia della città. Ancora una buona giornata dalla redazione da Anna Rita D'Ambrosio. In primo piano l'abbiamo detto a Trapani, dove ancora non è chiara la dinamica dell'omicidio-suicidio di questa mattina. 5 le vittime. Un gesto di follia. Sembra essere questo il movente della tragedia avvenuta al quinto piano di una palazzina alla periferia di Trapani. Qui un uomo di 40 anni, Pietro Fiorentino, ha prima ucciso la moglie Stefania, da cui era separato, poi ha ammazzato la figlia Daniela di 8 anni, la suocera Nunzia e il cognato Hans. Infine, dopo aver dato fuoco alla casa dei familiari, si è lanciato dal balcone uccidendosi. Secondo gli investigatori, l'uomo, esasperato dalle numerose liti a causa della separazione, avrebbe deciso di recarsi nell'appartamento della moglie e dopo l'ennesima discussione, stamani la follia omicida ha preso il sopravvento. Secondo alcune indiscrezioni, Fiorentino non avrebbe mai accettato la separazione e pare tormentasse la moglie chiedendole denaro, e quest'ultima avrebbe denunciato il coniuge per ben 3 volte per maltrattamenti. I carabinieri stanno verificando se le denunce sono state effettivamente firmate dalla vittima. Uscendo dalla palazzina della strage, sgomberata in via precauzionale dai vigili del fuoco, il procuratore di Trapani, Marcello Viola, ha però detto non risulta alcuna denuncia per stalking. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ancora cronaca, continuano le proteste degli operai Fincantieri a Genova, stamani bloccata la sopraelevata che attraversa la città, ci sono state ripercussioni anche sul traffico autostradale, i lavoratori però hanno deciso poco fa di tornare in corteo verso il cantiere di Sestri Ponente che rimarrà presidiato per tutto il giorno, domani è prevista l'assemblea dei lavoratori all'interno dello stabilimento. Intanto oggi sono arrivati i dati della produzione industriale che in Italia è ai minimi dal 2009. Al di là dei dati singoli, a novembre per esempio un rialzo, seppur timido, c'è stato, i primi 11 mesi dell'anno che si è appena chiuso sono stati piatti. La produzione industriale è rimasta ferma e se è vero che non bisogna soffermarsi solo sul numero isolato, il calo tendenziale di novembre la dice lunga, meno 4,1%, terza discesa consecutiva, uguale a quella di ottobre, il ribasso più forte dal dicembre 2009. Nel dettaglio il bollettino è di quelli da dimenticare. Nel penultimo mese del 2011 si salvano solo i beni di consumo e l'energia, che però cadono rovinosamente nel confronto anno su anno. Solo segni meno per i beni strumentali e intermedi, per gli apparecchi elettrici, computer, ma soprattutto le industrie tessili, abbigliamento, pelli e accessori. Gli unici settori dell'industria in crescita sono l'attività estrattiva, la fabbricazione di prodotti e preparati farmaceutici e la fabbricazione di macchinari non classificati altrove. Un capitolo a parte per gli autoveicoli. A novembre la produzione è crollata rispetto allo stesso mese del 2010, la flessione è stata superiore al 24% e nei primi 11 mesi dell'anno è calata del 4,3%. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ci spostiamo all'estero, si va chiarendo la vicenda del reporter francese ucciso ieri in Siria. E allora andiamo a Damasco dall'inviato del Sole 24 Ore, Alberto Negri. Alberto. Jacquerie è morto da eroe, almeno così si capisce dal racconto di Mirella Abinasser, una giornalista libanese che lo accompagnava nel viaggio a Homs. Mirella era con lui nel momento in cui sono scesi dalla macchina e sono cominciati i primi lanci di mortaio. A quel punto Gilles si è buttato su Mirella e l'ha protetta dai colpi di mortaio. Mirella è stata colpita a un piede e invece il povero Gilles è stato ucciso da schegge più grosse che lo hanno fulminato sul colpo. Che è un grande giornalista, un grande reporter, che possiamo dirlo, è davvero morto da eroe per salvare la vita di un'altra persona. Alberto, grazie. Ma tu oggi dove sei? Oggi mi trovo fuori Damasco, intorno alle montagne, al confine tra la Siria e il Libano. Tra l'altro in questo momento sta nevicando, ma questo non è certo il fattore più importante, il tempo meteorologico, è il tempo politico. Il regime, si è visto, cerca di rispondere in qualche modo alla mancanza di controllo in alcune aree del paese, come Homs, come Hama, come Daraa, e avanza anche oggi delle proposte politiche per avviare un negoziato destinato, secondo il regime, appunto a creare un nuovo governo che contenga anche elementi dell'opposizione. Ma quale opposizione? Perché qui anche l'opposizione è divisa, frammentata, lo abbiamo visto e lo capiamo molto bene, ci sono delle ali politiche disposte a negoziare con il governo, delle altre che non vogliono altro che l'uscita di scena di Assad, e poi ci sono anche i gruppi armati che naturalmente stanno tenendo in scacco le forze di sicurezza appunto nelle città calde come Homs, come Hama, come Daraa, ma anche in alcuni quartieri della periferia di Damasco. E noi torniamo in Italia ringraziando Alberto Negri per questi aggiornamenti da Damasco in Siria, dove i giornalisti occidentali sono pochi. Purtroppo ieri uno di loro è morto, lo avete sentito nel racconto di Alberto Negri, sarebbe peraltro morto eroicamente per salvare una collega. Noi, come detto, torniamo in Italia per parlare del taglio delle province, del quale si discute oramai da molto tempo. Oggi c'è una lettera sul Corriere della Sera a firma del presidente della provincia di Milano e del presidente della provincia di Torino. Noi ascoltiamo le motivazioni, loro in sostanza dicono che al di là di questo taglio che si può fare, probabilmente si farà, ci sono anche altri interventi che si potrebbero realizzare. E allora noi abbiamo ascoltato il presidente della provincia di Milano, Guido Potestà. Sentiamo cosa ci ha detto. Questo è un tema che è trasversale. Siamo pubblici amministratori, viviamo le realtà di una pubblica amministrazione di due grandi province, Torino e Milano, e quindi abbiamo un comune sentire. Il punto vero, grave, qual è? È la proliferazione di queste province, no? E quindi a dare la responsabilità, prima di tutto mi lascia dire, poi ai gruppi locali che hanno spinto a un frazionismo esasperato, poi anche ai parlamentari, perché non dimentichiamoci che è passato sempre l'unanimità dal Parlamento italiano, quindi al di là degli schieramenti, il fatto di fare le nuove province. In Sardegna lei ne ha 8 con 2 milioni di abitanti, la provincia di Milano con oltre 3 milioni di abitanti è una. Lo avete sentito nei nostri titoli, migliaia di messaggi di solidarietà per Giovanni Tizian, giornalista precario 29enne di origine calabrese, collaboratore della Gazzetta di Modena, da 20 giorni sotto scorta perché minacciato dal crimine organizzato per le sue inchieste. Nell'89 l'andrangheta uccise suo padre, funzionario di banca, Locri, mentre tornava a casa dal lavoro. Lo ha intervistato Maria Luisa Pezzali. Contrattuale, economica, vado avanti con la passione di scoprire, di ricercare, però alla base c'è una doppia vulnerabilità, proprio perché devo girare con la scorta, e l'altra parte riguarda appunto la precarietà economica, quindi non si è mai tranquilli, a maggior ragione con questo tipo di doppia vulnerabilità, però insomma continuerò a fare questo in ogni condizione. Vado avanti nonostante i mafiosi, nonostante la precarietà, ecco, questo è certo. Cos'è cambiato per te? Ma è cambiato nelle piccole cose, anche per esempio appunto andare a fare la spesa c'è un po' più di fretta, no? Pensi anche di dare fastidio, quindi cerchi di fare presto tutto, anche il lavoro, sai, il giornalista comunque ha dei tempi che possono cambiare nella giornata, nel momento, e quindi ogni imprevisto diventa chiaramente una complicazione nella pianificazione di tutta la giornata, no? Con lo sport. Hai paura, hai avuto paura dopo quella telefonata? Sicuramente è umano provare la paura, ma dopo ieri insomma so di avere un muro che è la società civile, che le istituzioni, insomma è importante perché rispondiamo a chi vorrebbe farmi del male, rispondiamo questo è il nostro territorio e siete voi quelli che non ci dovete stare, ecco. La solidarietà dell'intera Radio 24 a Giovanni Tizian, giornalista precario 29enne di origine calabrese, collaboratore della Gazzetta di Modena, da 20 giorni, lo ripetiamo, sotto scorta perché minacciato dal crimine organizzato non in Calabria ma a Modena. Lo sport, è partita la missione del Milan per chiudere l'affare Tevez. L'amministratore delegato rossonero Galliani è volato a Londra. In Inghilterra la delegazione milanista incontrerà l'agente di Tevez e con lui si presenterà l'appuntamento fissato con i dirigenti del Manchester City per provare a chiudere questa lunga trattativa. Intanto è guerra in famiglia in casa Berlusconi in vista del derby tra Milan e Inter. Sentiamo perché. Berlusconi contro Berlusconi. Sigmund Freud ci sguazzerebbe nell'atmosfera straniante che scandisce il conto alla rovescia verso il derby della Madonnina di domenica. Sì, perché per ora è guerra non tanto tra il diavolo e i cugini nerazzurri, ma tra il Milan e Mediaset, cioè i due pezzi da 90 dell'impero dell'ex presidente del Consiglio, con Barbara Berlusconi nel CDA del club e il fratello Pier Silvio a reggere le redini di Mediaset. Tutto nasce dal dopogara di domenica scorsa, quando mister Allegri s'azzuffa in diretta TV sul rigore assegnato al rossonero Pato a Bergamo. Il tecnico al microfono di Mediaset dice che il penalty c'era, contraddetto da studio dall'ex arbitro Paparesta. Il diverbio lascia il segno, tanto che il Milan ieri ufficializza che in vista del derby a Mediaset verranno negate le consuete interviste esclusive con i giocatori. Immediata la reazione, con un controcomunicato ufficiale da parte del comitato di redazione di Sport Mediaset. Ma intanto è guerra in famiglia, col derby sempre più vicino e la firma di una tregua sempre più lontana. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Prima di salutarvi vi ricordo che è in corso il voto nell'aula della Camera sull'arresto del deputato del PDL Nicola Cosentino e che abbiamo aperto questa edizione con la pronuncia della Consulta che ha detto no ai referendum elettorali. Durissime le parole di Antonio Di Pietro che ha anche detto che la Consulta avrebbe fatto un piacere al capo dello Stato. Ebbene, una nota dal Quirinale ancora non è arrivata, ma negli ambienti del Quirinale si esprime praticamente un certo nervosismo da parte di Napolitano per queste parole pronunciate nei confronti della Consulta. Volgari insinuazioni sulla Corte Costituzionale, questa sarebbe l'opinione del capo dello Stato. Ed è tutto per questa edizione condotta da Anna-Rita D'Ambrosio e grazie regia Fabio Cantadori. Vi lasciamo in compagnia di Italia in Controluce, il GR torna alle 14. GR24, il sole 24 ore. Direttore Fabio Tamburini.